Anch'io, come tutti, più o meno ho smesso di fare collezione di francobolli ai tempi del ginnasio, quasi mezzo secolo fa. Ma quelle vignette multicolori, vi confesso, continuano ad affascinarmi. Mi capita ogni tanto di tenere da parte qualche affrancatura interessante, non manco mai d'osservare e di annotarmi mentalmente le immagini che vi figurano. Non si tratta, credo, di semplice curiosità. Quella della filateria, chiamiamola così, è una via come un'altra, migliore forse di tante altre, per tenere d'occhio l'evoluzione del gusto, degli interessi collettivi, delle ideologie dominanti. Nei francobolli viene esplicitato e reso pubblico il quadro valori vigente, almeno a livello ufficiale, e non soltanto attraverso la scelta dei soggetti e dei personaggi che si considerano degni di esservi ricordati e quelli che no. La stessa evoluzione della loro iconografia, il passaggio dagli stemmi e dalle effigi sovrane di una volta alle raffigurazioni simboliche che vi hanno rimpiazzati, alla varietà policroma di soggetti che caratterizza gli ultimi decenni, è un riflesso eloquente di come cambia l'immagine che un paese vuole dare di sé, come a dire della sua storia ideologica. D'immagini, a dire il vero. Oggi sui francobolli ne compaiono di tutti i tipi, ritratti, riproduzioni di quadri famosi, disegni, caricature, fumetti, paesaggi, fotografie, se ne emettono per tutti gli scopi e per tutti i fini, per onorare la squadra vincitrice del campionato di calcio, per esortare i cittadini a finanziare questa o quella causa meritevole, per ricordare fatti di cronaca e persino per celebrare festività religiose e nazionali. La fantasia e l'inventiva delle autorità competenti non sembrano avere limiti. Eppure l'esemplare che figura sulla busta che ho ricevuto l'altro ieri è riuscito nonostante tutto a stupirmi. Di francobolli ne avevo visti tanti, ma era il primo, quello che raffigurasse a mia memoria un capo di biancheria. E forse l'avete notato anche voi, se in libera vendita presso tutte le tabaccherie, il valore da 41 centesimi di euro, bianco, con una cornicetta d'oro, illustrato con l'immagine isolata ed evidentissima di un reggiseno. Niente di male, naturalmente. Oggi un reggiseno, soprattutto se vuoto, non fa paura a nessuno. Ma ammetterete anche voi che non si tratta di un oggetto che compaia spesso in sede pubblica, tanto più che quello del francobollo, per quanto ho potuto capirne, non è nemmeno un modello particolare, non è un esempio di innovazione tecnologica o di taglio sartoriale particolarmente ardito, non è neanche un cimelio, come potrebbe essere un esemplare indossato a suo tempo, che so, da Anita Garibaldi o da Madre Teresa di Calcutta o da qualche altro personaggio femminile degno d'essere ricordato. È un normalissimo reggiseno nero e del tipo imbottito e con le bretelline. E la sua raffigurazione, come si apprende dalla didascalia, serve semplicemente a illustrare il design italiano nel settore alta moda. Per la precisione, come precisato in calce, si tratta di un prodotto di marca, realizzato dalla casa di moda Dolce & Gabbana, che, come mi hanno spiegato, è una delle firme più note nel campo del prêt-à-porter. Ora, un'immagine di questo tipo potrà stupire qualche vecchio bacucco per mio, ma in sé non è particolarmente scandalosa né sconveniente. Quello del design, specie del design d'alta moda, è un settore importante dell'economia nazionale. E tra i soggetti che i francobolli non mancano mai di celebrare, quelli relativi alle attività produttive del paese sono sempre stati privilegiati. E quando ero ragazzo, ricordo, gli esemplari di uso più comune raffiguravano l'Italia al lavoro, regione per regione, minatori in Val d'Aosta, operai in Piemonte, raccoglitrici d'arancia in Sicilia, pastori in Sardegna, filatrici di seta in Lombardia, mietitori in Puglia e via andare, no? Oggi che di miniere non ce ne sono più. Le fabbriche superstiti sono in via di chiusura, la seta arriva direttamente dalla Cina, la trebbiatura non si fa più a mano e alla raccolta delle arance provvedono quegli extracomunitari così invisi al ministro Bossi, e bisogna ovviamente accontentarsi di quel che c'è. Anche il fatto, in sé credo senza precedenti, che all'immagine del prodotto si accompagni come una affiche pubblicitaria al nome del produttore, non è così strano. Viviamo nell'epoca delle sponsorizzazioni, della valorizzazione del privato a ogni costo, non si vede perché a questa ideologia debba sottrarsi l'amministrazione postale. E può dare un po' di fastidio il fatto che si tratti di una pubblicità legata, pagata in ultima analisi dai destinatari. nella loro duplice qualità di contribuenti e di acquirenti di valori postali, ma anche questo ormai è storia vecchia, e paghiamo il biglietto per salire su dei tram o degli autobus che sembrano le clanse moventi, subiamo senza fiatare il canone televisivo per assistere a una serie continua di spot, per cui dovremmo esserci abituati. Anche l'esibizione di un oggetto che fino a non molti anni fa non si esibiva affatto, in quanto destinato per definizione a essere indossato sotto gli abiti, non può creare in sé particolari problemi. Oggi i dessous si ostentano normalmente, e non solo in sede pubblicitaria, le signore non si preoccupano più giustamente di celarne la presenza, non si lasciano certo intimidire se si vedono le spalline, se un orlo emerge dalla scollatura, se l'allacciatura fa mostra di sé sulla schiena scoperta. Anzi, suppongo che sia proprio nel fatto che ormai i reggiseni si vedono e quindi si possono riconoscere e individuare per marca, consista il motivo che ha indotto a produrne le case di moda generaliste. Un indumento firmato lo si porta perché tutti, e non soltanto la cerchia delle conoscenze più intime, possano notarne e apprezzarne la firma. E allora, che cosa c'è che non va in quel francobollo? Niente, in fondo, se non il fatto d'essere veramente troppo banale. È banale, ne converrete, esaltare la funzione del design come scommessa vincente della nostra economia. Tanto è vero che lo fa sempre quel genio della banalità che è Berlusconi, l'unico imprenditore o ex imprenditore capace di sostenere che alla crisi Fiat si può avviare sfruttando di più il marchio Ferrari, un consiglio che non so a voi, ma a me ha ricordato quello celebre di Maria Antonietta sul pane e sulle brioche. È banale mescolare la funzione pubblica con gli interessi privati, perché lo fanno tutti, e del conflitto che ne consegue dal Presidente del Consiglio in giù non gliene potrebbe importare di meno a nessuno. Ed è banale, naturalmente, raffigurare un indumento che prima non si raffigurava né si mostrava, adesso che senza problemi lo fanno vedere tutti. Se questa triplice banalità, come temo sia il caso, viene presentata con l'intenzione sottintesa di far mostra di chissà quale disinvoltura, perché il design e l'alta moda potevano essere rappresentati da un'infinità di altri articoli, e se si è scelti quello ci sarà stato ben un motivo, è la volta che ci si confessa per quel che si è. Sui francobolli ogni autorità mette i propri simboli, e quel reggiseno nero in campo bianco potrebbe agevolmente essere considerato, se non proprio il simbolo del paese, almeno quello del suo ceto dirigente. Già non me preoccupo, io soy feliz de corazón.